Il progetto DINSO è un progetto del GAL dell'Appennino bolognese per promuovere e far conoscere l'identità agricola, alimentare ed enogastronomica del nostro Appennino attraverso un'alleanza con ristoratori e chef. E organizziamo 30 eventi in altrettanti locali. L'accesso a questi eventi è gratuito fino al raggiungimento della capacità di posti tavola. Interverranno non solo gli chef ma anche i produttori agricoli. Quello che vogliamo mettere in evidenza è che c'è una agricoltura non omologata, quella dell'Appennino, che è portatrice di grandi valori. È un'agricoltura non industriale, non intensiva, è un'agricoltura naturale con bassissime rese produttive ma altissima qualità, è un'agricoltura che si avvale di allevamenti all'aperto, lo stato brado, semibrado, che coltiva grani antichi, poveri di glutine, ricchi di proteine, è l'agricoltura dei frutti dimenticati come la mela rosa romana, l'antica mela rosa romana e altre cose di questo genere. E allora questa agricoltura considerata marginale può invece essere un'agricoltura importante e noi la vogliamo far conoscere appunto attraverso questa alleanza con gli chef e con questi 30 eventi. Ed è la cosa più distante possibile da quello che è un'agricoltura intensiva, quindi ha anche un enorme valore. Assolutamente, perché diciamo l'agricoltura di montagna è considerata marginale e in effetti lo è. Sono pochissime le superfici coltivate, sono molto di più le superfici boscate, sono coltivate in modo estensivo, con il minimo impiego di mezzi tecnici, però è un'agricoltura diversa da quella della pianura, è naturale, è biodiversa ed è espressione di tradizione e tipicità. Tutti i valori che oggi, come dire, sono ricercati.